Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io aderisco da cittadino, in questo caso, da cittadino che è convinto che quest'opera di sensibilizzazione sia utile. Però credo che ci sia anche bisogno che si mobiliti la società civile. Vedete, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, anzi sentite, questo è il ministro Delrio che ritorna su un tema che sembrava archiviato ormai dalla politica, almeno per questa legislatura. Invece Delrio torna sullo Ius Soli, che appunto sembrava, con le dichiarazioni di Alfano e anche della sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Boschi, anche se diciamo dichiarazioni di natura diversa, sembrava messa ormai da parte. No, ci ritorna e c'è un pressing, una pressione particolare sul governo, perché ci sono vari parlamentari, oltre a personaggi della cultura, dell'arte, dello spettacolo, che hanno aderito a questo sciopero collettivo della fame. Addirittura il 13 ottobre ci sarà una mobilitazione di piazza su questo tema. Ne parleremo, così come ci occuperemo della Catalogna. A proposito di piazze, continua il braccio di ferro tra Barcellona e Madrid, ci collegheremo direttamente con Barcellona. E poi c'è il premio Nobel per la letteratura, uno dei due più attesi, letteratura e quello della pace, no? Quello della letteratura, che è andato a un scrittore giapponese che però non è Murakami quello che si pensa sempre, no? È lì candidato ogni volta, è più amato scrittore giapponese dagli occidentali, non è lui il candidato, anzi quello che è stato premiato oggi. Ci occuperemo anche di questo. Poi parleremo di Battisti, Cesare Battisti, l'ex terrorista che dal Brasile ieri era stato arrestato, ne avevamo parlato, e continua a sfidare l'Italia. Insomma, un sacco di cose, non vi anticipo altro. 349-238-6666, vi ricordo solo appunto i vostri canali di interazione con Effetto Notte, che sono numero per messaggi WhatsApp 349-238-6666, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Direi di partire con racconto della giornata. Il caso di Cesare Battisti, l'ex terrorista, sfida l'Italia. Sono protetto dall'asilo politico, dice, ma il ministro Orlando dichiara la sua estradizione è possibile. Catalogna, la Corte spagnola vieta la seduta del Parlamento catalano per impedire l'indipendenza. Rajoy e Puigdemont dice eviti mali peggiori. Allarme del Viminale, dalla rotta tunisina flussi fuori controllo. Ius Soli, sciopero della fame per l'approvazione della legge, aderisce anche il ministro Delrio. Pressing sul governo, aderiscono 70 parlamentari. Formazione, l'OCSE striglia l'Italia, dice, pochi laureati e poco valorizzati. Nobel per la letteratura, il riconoscimento va a Kazuo Ishiguro, autore di Quel che resta del giorno e Non lasciarmi, che nei suoi romanzi ha svelato l'abisso sotto il nostro illusorio senso di connessione con il mondo. E poi il cinema, da stasera in sala l'atteso Blade Runner 2049. Partiamo quindi dalla vicenda di Cesare Battisti, l'ex terrorista condannato in Italia all'ergastolo per 4 omicidi, protetto da anni in Brasile come rifugiato politico, che ieri è tornato a far parlare di sé. Ci siamo collegati subito con il Brasile. Era stato arrestato dalla polizia brasiliana mentre cercava di trasferirsi in Bolivia. Perché? Perché comincia a sentire che si stringe un po' il cerchio intorno a lui. Oggi sul caso ha parlato il ministro della giustizia Orlando. L'estradizione è possibile, l'Italia la chiede da tempo e la richiesta dell'Italia rimane ferma, ci sono tutti i presupposti sulle basi del diritto internazionale perché questa sia realizzata. Noi abbiamo fatto tutti i passi presso le autorità giurisdizionali brasiliane e presso le autorità politiche, e alla luce di questo nuovo fatto ne faremo di ulteriori. L'Italia è fortemente determinata a far sì che Battisti sconti la sua pena e la sconti nel nostro paese, anche per restituire soltanto in parte ciò che è stato tolto alla nostra comunità e ciò che è stato inflitto alle vittime del terrorismo. E questo il ministro Orlando l'ha detto oggi qui al convegno della giustizia che cambia, che si è tenuto nella nostra sede del gruppo 24 ore per i 10 anni del programma Storiacce di Radio 24 condotto da Raffaella Calandra. Hanno partecipato appunto il ministro Orlando, poi c'era Francesco Greco, procuratore della Repubblica di Milano, Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica di Roma, Ilda Boccassini, procuratrice aggiunta di Milano, e poi Michele Prestipino, procuratore aggiunto di Roma, naturalmente c'era il nostro direttore Guido Gentili. Il ministro degli esteri Angelino Alfano nei mesi scorsi aveva dato mandato all'ambasciatore italiano in Brasile di richiedere formalmente alle autorità brasiliane di riavviare le procedure di estradizione di Battisti. Lui, vi dicevo, condannato all'ergastolo in Italia per 4 omicidi, fuggì a Rio de Janeiro nel 2004, poco prima del pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato francese, che l'avrebbe estradato in Italia da Parigi, città dove l'ex militante dei PAC, così come altri terroristi coperti dallo scudo della dottrina Mitterrand, ex presidente francese, si era rifatto una vita lì in Francia, come affermato scrittore noir. Era fuggito quindi in Brasile, che gli ha concesso lo status di rifugiato politico, e adesso oggi torna a sfidare l'Italia Cesare Battisti e dichiara che alla Polizia Federale di non temere di essere estradato in Italia perché si sente protetto da un decreto dell'ex presidente brasiliano Lula da Silva. Ci colleghiamo allora con Emiliano Guanella, di nuovo col Brasile. Ciao Emiliano. Ciao Roberto, buonasera agli ascoltatori. Quindi ieri è stato arrestato perché appunto stava andando in Bolivia, mentre se ha questo status di rifugiato politico deve rimanere in Brasile, no? Certo, e ieri abbiamo parlato appunto della possibilità che lui stesse cercando una fuga in Bolivia, perché appunto il momento politico era cambiato, il suo avvocato difensore aveva anche richiesto una escorto alla Corte Suprema brasiliana, quindi c'era preoccupazione. Oggi però, Roberta, interrogandomi sulle ragioni per cui una persona che è profuga, fuggiasca da più di 30 anni, che è stata in Francia, in Messico, è arrivata in Brasile, ha approfittato delle conoscenze politiche con quel mondo della sinistra brasiliana che l'ha protetto, ha compiuto una svista così grande, cioè andare in Bolivia con una somma di denaro superiore a quella permessa. Perché è stato allora fermato per questo. Sì. Esatto, è stato fermato per questo. Allora ha interrogato un professore di diritto penale qui di San Paolo per chiedere cosa potrebbe succedere se a Cesare Battisti si ufficializza il crimine, il delitto di esportazione illegale di valuta e quindi si apre un processo penale nei suoi confronti. In caso di processo penale per Cesare Battisti, automaticamente non può essere estradato fino a quando il processo penale non viene completamente. Quindi quasi l'avesse fatto apposta. Esattamente, in Brasile ci sono 3 gradi di giudizio, quindi un processo può durare diversi anni. Esiste, secondo lo statuto degli stranieri in Brasile, un'altra carta, che è quella dell'espulsione. Cioè, anche se c'è un processo penale in corso, un cittadino straniero può essere dal paese su decreto del Presidente della Repubblica se considerato pericoloso o non desiderabile. Però anche qui, caro Roberto, c'è un cavillo a pensare male a volte uno ci azzecca perché Cesare Battisti ha un figlio brasiliano e quindi c'è un articolo in questo stesso statuto che impedisce l'espulsione dal Brasile nel caso in cui un cittadino straniero abbia un figlio brasiliano a suo carico economicamente. Diabolico, quindi Emiliano Guanella, bisogna dire veramente diabolico, consigliato molto bene dagli avvocati. Vedremo qual è il prossimo passo quindi del governo italiano in questo senso, visto le dichiarazioni del ministro Orlando. Grazie Emiliano Guanella dal Brasile. Ciao Emiliano, buon lavoro. E dal Brasile alla Catalogna, la Corte Costituzionale spagnola ha sospeso la sessione del Parlamento catalano che era prevista per lunedì, durante la quale il presidente catalano potrebbe annunciare la dichiarazione di indipendenza. Il primo ministro spagnolo Rajoy ha chiesto al presidente catalano di tornare alla legalità e rinunciare al progetto della dichiarazione unilaterale per evitare mali maggiori, ha detto, ma il Parlamento catalano propone una nuova convocazione per aggirare lo stop e poi ci collegheremo anche con Barcellona. Ora parliamo di questo allarme del Viminale, del Ministero dell'Interno, a proposito della rotta tunisina, perché chiusa quella di Lampedusa della Libia, adesso si è riaperta la rotta tunisina che pare fuori controllo perché arrivano, ci sono degli sbarchi di uomini che una volta approdati sulle coste siciliane in particolare svaniscono nel nulla. Tra poco chiederemo, i sindaci siciliani temono anche che possano essere a rischio terrorismo e tra poco chiederemo a un esperto qui a Effetto Notte se questa ipotesi possa essere fondata. Intanto la politica con il dibattito sulla legge elettorale. Si complica il cammino della legge elettorale con il pericolo che non se ne faccia nulla. Area Popolare chiede che la soglia di sbarramento al 3% non sia nazionale ma regionale al Senato. In pratica i partiti che la raggiungono in almeno 3 regioni possono eleggere senatori in quelle regioni a Palazzo Madama. Un modo per rientrare in gioco anche se si è piccoli, ma di irritare soprattutto il capogruppo PD alla Camera Ettore Rosato, che non esclude la possibilità. Non c'è nessuna trattativa col coltello, stiamo valutando il da farsi non è una norma salva P ma salva MDP. E da MDP gli risponde subito Antonio Dattorre: siamo assolutamente contrari, è una schifezza questa norma, favorisce la frammentazione e il mercato politico. Anche il Movimento 5 Stelle attacca. Per Andrea Cecconi non c'è nessun rossore sul volto di Rosato, mentre con nonchalance parla di norme che salvano questo o quell'altro partito. Il vero problema è che pensano solo alle poltrone e di fare una buona legge elettorale non gli passa neanche per il cervello. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di politica, ritorna, vi dicevo, con nuovo vigore il tema dello Ius Soli. Sono 70 parlamentari che hanno aderito allo sciopero della fame per l'approvazione della legge, promosso questo sciopero da Luigi Manconi. Il nome più significativo è quello del ministro Graziano Delrio, ma anche la presidente della Camera, Laura Boldrini, ci sta pensando. Intanto la ministra Anna Finocchiaro cerca una soluzione per approvare la legge entro la legislatura, argomento anche questo su cui torneremo più tardi. E poi invece, per quanto riguarda il tema della violenza contro le donne, la presidente della commissione parlamentare sul femminicidio, la senatrice Puglisi, ha detto oggi che ha presentato a mia firma, in accordo col capogruppo Zanda, il governo, sottoscritto da tutti i componenti del PD, della commissione d'inchiesta sul femminicidio e della commissione giustizia, una proposta di legge che cancella il reato di stalking tra quelli che possono accedere alle misure di giustizia riparativa, cioè danno dei soldi gli stalker e quindi viene estinto il loro reato. Insomma, è un errore che ha fatto qualche tempo fa lo stesso governo. Formazione: l'OCSE richiama l'Italia per la scarsa formazione. Solo il 20% degli italiani tra i 25 e i 34 anni è laureato, rispetto alla media OCSE del 30%, mentre noi abbiamo il 20%. Chi si laurea ha un più basso tasso di competenza in lettura e matematica. Inoltre, i laureati italiani non sono utilizzati al meglio, risultando un po' bistrattati. Un paese intrappolato nel basso livello di competenze, pochi laureati, poco preparati ma anche poco valorizzati nel mondo del lavoro. E dunque proprio nel campo delle competenze che il rapporto OCSE individua la maggiore criticità per l'Italia. E i numeri parlano chiaro: solo il 20% degli italiani tra i 25 e i 34 anni si è laureato, rispetto alla media OCSE del 30%. Non solo, quelli che ci sono vengono sottoutilizzati e spesso relegati a lavori di routine. Forti differenze permangono poi con le regioni del sud. E ora invece le buone notizie per l'organizzazione di Parigi: migliorano le performance del mercato del lavoro con le riforme strutturali messe in campo dal governo, compreso il Jobs Act del 2015, come spiega il segretario dell'OCSE Angel Gurria. Le riforme attuate in Italia hanno già consentito di creare circa 850.000 posti di lavoro dal 2015. Questo è un cambio enorme. Ma per migliorare i livelli di occupazione ancora troppo bassi e dare impulso alla crescita, occorre per l'OCSE considerare le competenze una priorità e dare piena attuazione alle riforme intraprese, dalla buona scuola al piano scuola digitale, dal Jobs Act al piano per l'industria 4.0. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Il Nobel per la letteratura 2017 è andato a Kazuo Ishiguro, perché nelle sue novelle, questa è la motivazione dell'Accademia delle Scienze, nelle sue novelle di grande forza emozionale ha scoperto l'abisso sotto il nostro illusorio senso di connessione con il mondo. Lo scrittore giapponese è in realtà naturalizzato britannico, ha 63 anni e autore fra l'altro di Quel che resta del giorno, anche famoso film ne è stato tratto. Ne parleremo tra poco con una famosa scrittrice. Per chiudere, il cinema: misurarsi con un capolavoro realizzandone il seguito è una sfida impossibile, però pare che sia stata vinta, è nelle sale da oggi Blade Runner 2049. È il seguito della storia del 1982 di Ridley Scott, ora produttore esecutivo. La firma nobilissima questa volta è quella di Denis Villeneuve. Siamo nel 2049, è l'era degli androidi di nuova generazione. L'agente K, Ryan Gosling, è a caccia dei replicanti ribelli, ma si imbatte in un segreto, anzi in un miracolo, del quale è meglio non svelare nulla per proteggere la sorpresa di chi andrà al cinema. I replicanti sono come ogni altra macchina. Possono essere un vantaggio o un rischio. Se sono un vantaggio, non sono un problema mio. Quello che si può dire è che nella sua ricerca l'agente K ritroverà un vecchio Blade Runner, proprio Rick Deckard, il protagonista del primo film, interpretato ancora una volta da Harrison Ford. Ancora una volta in gioco c'è il futuro, in un mondo senza sole. C'è il confine tra l'umanità e i replicanti, che passa per l'importanza di possedere dei ricordi e la possibilità di concedersi di sognare, oppure no. ci lascia speranze per l'avvenire? Questo non possiamo dirlo. Certo, come con il primo film, nessuno potrà uscire dalla sala senza tante domande e qualche batticuore. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A voi dunque il giudizio, se andrete a vedere il film, intanto per il riassunto, il racconto della giornata. Mi fermo qui, così aggiorniamo chi invece si sta muovendo, sta viaggiando per strade e autostrade. E poi, lo sapete, ritorno tra pochissimo perché dobbiamo cominciare a affrontare i vari temi con gli ospiti. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS. Ne stanno arrivando varie, in particolare sullo Ius Soli, per esempio. Questo messaggio, vediamo, provo ad aprirlo, eccolo qua, dice: questa ostinazione sullo Ius Soli è molto sospetta, come l'immigrazione, la sicurezza e altri temi pur importanti usato come arma di distrazione di massa per ossessionarci e distoglierci dal vero male del nostro tempo, le banche, la finanza bacata, le classi politiche prone e inconsistenti. Questo dice Massimo, poi ne parleremo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora, la sintesi della giornata ve l'ho raccontata, ricordatevi di accendere puntualmente alle 21, anche se è vero che ogni tanto vi ricordo i fatti principali comunque sino alle 22. Adesso però dobbiamo cominciare ad approfondire gli argomenti, i vostri messaggi, le vostre opinioni, pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Massimo scrive che i temi per quali mobilitarsi sono altri, non lo Ius Soli, per esempio i nostri ragazzi costretti a trasferirsi. Peraltro questo governo avrebbe dovuto fare solo la legge elettorale. Del Rio dice: un buffone, fosse serio si sarebbe dimesso. Ma vabbè, non si capisce perché si dovrebbe dimettere, al di là di essere d'accordo più o meno con lo Ius Soli. Adesso tra poco parleremo del Nobel per la letteratura, ma intanto vi ricordo, se non avete acceso puntualmente, quali sono i fatti principali di oggi. La Corte di Madrid ferma il Parlamento della Catalogna, che doveva riunirsi lunedì, e dice stop alla dichiarazione di indipendenza. L'Unione Europea chiede nuovamente una mediazione. Battisti, Cesare Battisti, l'ex terrorista in Brasile, sfida l'Italia, dice: sono protetto dall'asilo politico, il governo comunque al lavoro. Avete sentito le dichiarazioni di Orlando e anche di Alfano, che parlano di estradizione possibile. L'Ocse che striglia l'Italia, dice: pochi laureati e poco valorizzati. E poi al giapponese Kazuo Ishiguro il Nobel per la letteratura 2017, ne parleremo a momenti. Per lo Ius Soli, tema che state affrontando con molti messaggi, sciopero della fame per oltre 70 parlamentari, anche Del Rio, ministro Del Rio, fa pressione sul governo. E poi Mediaset, fiamme gialle negli uffici Vivendi a Parigi, mano tesa al governo su Tim, ma no a scorporare la rete. E 16enne violentata sugli scogli a Napoli, presi 3 minorenni, svolta sull'episodio accaduto 4 mesi fa a Mare Chiaro, appunto a Napoli. The Nobel Prize in Literature 2017 is awarded to the English writer Kazuo Ishiguro. Avete sentito l'annuncio del premio Nobel dall'Accademia delle Scienze, perché oggi è stato assegnato. Diciamo quello per la letteratura, insieme a quello della pace, il più atteso, a volte anche il più discusso. Vi ricordate, l'anno scorso fu assegnato a Bob Dylan. Beh, quest'anno invece, mentre i bookmakers puntavano sul giapponese più amato dagli occidentali, Murakami Haruki, è andato a un giapponese, sì, ma naturalizzato britannico, che, come avete sentito, Kazuo Ishiguro, 63 anni, autore di romanzi come Quel che resta del giorno e Non lasciarmi, tutti e due romanzi che poi hanno dato vita anche a dei film. La motivazione è questa: per i suoi romanzi, dalla grande forza emotiva in cui ha svelato l'abisso del nostro illusorio senso di connessione con il mondo. Qual è stato il commento di Ishiguro? Ha detto: è una notizia sorprendente, totalmente inaspettata. E poi ha aggiunto che ricevere questo grande onore, anche se nel mio piccolo, possa incoraggiare le forze del bene e della pace in questo momento. Ne voglio parlare con una famosa scrittrice italiana. Tra i suoi romanzi Il mondo deve sapere, da cui è stato tratto poi il film di Paolo Virzì Tutta la vita davanti, e poi ha vinto il premio Campiello nel 2010 con Accabadora, solo per citare due dei suoi romanzi. È anche una grande appassionata di Ishiguro, vero Michela Murgia? Buonasera. Ebbene sì, ho esultato sulla Plaça Reial oggi in Catalogna quando ho ricevuto la notizia, perché mi sembrava allo stesso tempo bella e incredibile, perché l'Accademia di Svezia ci ha abituati assegnazioni di premi a nomi sconosciuti, peraltro interessantissimi, ma è raro che coincida il riconoscimento del Nobel con anche una notorietà già presente. Kazuo Ishiguro è uno degli scrittori più influenti del mondo. Ma tu sei, allora, io so che a te piace di più forse Il gigante sepolto tra i suoi romanzi? È questo? Il gigante sepolto ha pagato purtroppo il pregiudizio italiano sul fantasy, sul fantastico, perché è certamente il suo romanzo più compiuto, quello che lui stesso dichiara la sintesi del suo percorso letterario, e tuttavia, poiché c'è un drago dentro e ci sono riferimenti al ciclo arturiano, il pubblico italiano lo ha recepito come un romanzo di genere. Si tratta ovviamente di un equivoco madornale che ha impedito a molti di leggere quello che per me resta il suo capolavoro. Il gigante sepolto. Senti, ma dall'Accademia delle Scienze qualcuno ha commentato, un membro ha detto che il suo stile è un mix di Jane Austen con Kafka, a cui aggiungerei un po' di Proust. Tu sei d'accordo? Naturalmente no. Potessi scrivere io come scrive Ishiguro, che ha la capacità di attraversare i generi con una rapidità che è proprio a solo dei grandissimi. Tra l'altro è una persona estremamente umile che ho avuto la fortuna di conoscere nel 2015 al Festival della Letteratura di Mantova. Raramente una così grande scrittura andava d'accordo anche col suo proprietario. Di solito gli scrittori è meglio non conoscerli. Però noi ti conosciamo, Michela. Senti, tu come mai sei, posso chiederti perché sei a Barcellona? Sei una sostenitrice? Sono a Barcellona per essere presente, diciamo, in questo momento di transizione verso una sperabile indipendenza della Catalogna dalla Spagna. È un percorso che per ragioni politiche e indipendentiste mie seguo da molti anni. Non mi sembrava vero, insomma, di star lontana mentre si succedeva la storia. Quindi sei a favore, insomma. Totalmente. Mentre ci parli della tua passione per il premio Nobel 2017 per la letteratura. Quando il premio a te, Michela? Pensi che... Quando? A quando il premio per te? Quale premio? Nobel. Grazie di questa risata. Bella risata. Giunge al termine di una giornata attesa. Mi raccomando, sempre pacificamente da quelle parti. Grazie Michela Murgia. Buona Saluti continuazione allora. Ora invece cambiamo del tutto tema, parliamo di migranti e degli sbarchi fantasma in Sicilia, così come vengono definiti, migranti che arrivano dalla Tunisia, dalla rotta tunisina, dopo che è stata un po' stretta, un po' più chiusa quella tra Libia e Lampedusa. Questi migranti arrivano dalla Tunisia e poi si dileguano correndo, allontanandosi sulla spiaggia. L'ultimo arrivo ieri ad Agrigento, 20 o 30 persone che sono sparite nel nulla dopo essere scese dal barcone. L'associazione Mare Amico dice che ci sono stati almeno 80 sbarchi incontrollati da giugno, migranti provenienti dalla Tunisia che stavolta però per loro pare che non ci sia alcun controllo. Ci sono vari video che lo dimostrerebbero. I sindaci della costa sono preoccupati, lo scrive anche il primo cittadino di Pozzallo, ha scritto al ministro, che è Roberto Ammatuna, ha scritto al ministro d'interno Marco Minniti, dice è un fenomeno preoccupante per possibili infiltrazioni di potenziali soggetti appartenenti a cellule jihadiste. Ne voglio parlare con Francesco Marone, che è del ricercatore dell'Osservatorio sul terrorismo dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera Marone. Buonasera, grazie. E con il collega del Sole 24 Ore, Marco Ludovico. Inizierei con te, Marco. Ci puoi dare un po' la misura di questo fenomeno? Esistente. Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Ciao Marco. Il fenomeno degli sbarchi della Tunisia dall'anno scorso a quest'anno ha avuto un boom quasi incredibile. Vi dico soltanto che al 2 ottobre l'anno scorso erano arrivati in Italia 574 tunisini, quest'anno siamo già a quota 2708. Ma l'altra cosa che dobbiamo subito spiegare è che a differenza degli sbarchi dalla Libia, che conosciamo tutti, con barconi precari, i salvataggi e tutte le procedure che sono state svolte finora, appunto dalla Tunisia partono delle barche molto più solide e sicure, non ci sono mai più di 40-50 equipaggi, e il loro obiettivo è effettivamente quello di arrivare, se possibile, sulle coste italiane senza essere salvati e poi appunto dileguarsi, perché il loro obiettivo in realtà è quello di poter raggiungere Ventimiglia e poi arrivare in Francia senza avere nessun genere di controllo. Sul timore di un rischio terrorismo io però sarei un po' prudente. Marco Ludovico, lo chiediamo allora a Maroni, visto che è ricercatore, dicevo, dell'ISPI per l'Osservatorio sul terrorismo. Che dice Marone? Cioè, è fondata questa ipotesi, questa preoccupazione o no? Io condividerei la cautela che è stata appena espressa, nel senso che il rischio potenziale c'è sempre, il rischio potenziale di infiltrazioni terroristiche in questi flussi migratori così ampi e difficili da controllare c'è sempre, però è un rischio oggettivamente piuttosto basso. Migrazione e terrorismo sono due fenomeni diversi, ci possono essere delle possibili limitate sovrapposizioni, ma rimangono due fenomeni che hanno logiche, percorsi diversi. Questo senz'altro, ma questo invece, appunto, aumentare del flusso che arriva dalla Tunisia e con queste modalità che ci descriveva Marco Ludovico, no? Quindi non con quei barconi sciagurati, la gente lì che arriva quasi disidratata, malmessa, qualcuno anche purtroppo muore per strada, cioè, non c'è qualcosa di diverso? Mi pare che dalla stessa Tunisia sia arrivato un po' un allarme, anche perché ci sono stati ultimamente una serie di indulti nelle carceri tunisine. Sì, senz'altro, ci sono dei possibili motivi di preoccupazione, anche perché appunto si tratta di persone che sanno di non poter godere della protezione internazionale, visto che appunto in Tunisia non esiste un conflitto o non esistono condizioni così gravi da consentire la richiesta di asilo in Europa, in particolare in Italia, per cui sono persone che non hanno nessun interesse a entrare in contatto con l'autorità italiana, a farsi fare, perché non potrebbero in nessun modo richiedere l'asilo in Italia. È possibile, è probabile che dentro questi flussi dalla Tunisia ci siano anche persone malintenzionate, ci siano persone che hanno in Tunisia trascorso periodi nelle prigioni, che sono uscite perché hanno scontato la pena o perché ci sono stati, come si accennava, degli indulti. Per cui un possibile problema di ordine pubblico in generale ci può essere, ci possono essere in sintesi anche dei delinquenti chiaramente all'interno di questi flussi. Però non necessariamente questi delinquenti sono dei terroristi, un problema di ordine pubblico generale, ma non necessariamente, anzi difficilmente un problema serio, secondo informazioni che abbiamo oggi, di infiltrazioni terroristiche. Detto questo, il problema rimane e sappiamo che alcuni degli attentatori, anche recenti, sono passati dall'Italia e venivano dalla Tunisia prima di colpire, come è stato fatto l'anno scorso, a Berlino a Natale oppure pochi giorni fa a Marsiglia, per cui il rischio esiste anche se non è molto elevato. Chiede un ascoltatore, per esempio Marco, chiedo a te Marco, dicevo, una curiosità, ma in tutto questo la Marina Militare e la Guardia Costiera che fanno, che cavolo fanno? Dicevo, insomma, che fanno? Cioè, si ha l'impressione, Marco, che ci sia comunque la situazione sia sotto controllo? Sufficientemente? Il dispositivo di controllo in realtà è molto più ampio, perché c'è la Marina Militare, c'è la Guardia Costiera, c'è la Guardia di Finanza, ci sono anche le unità internazionali delle operazioni europee. Il mare tuttavia è molto grande e non è facile fare intercettazioni di questo genere. In realtà c'è una preoccupazione di governo, lo abbiamo scritto proprio oggi sul Sole 24 Ore raccontando di questo flusso della Tunisia, che è legata a questo incremento continuo, quasi quotidiano, di questi sbarchi. Tra l'altro arrivano anche numerosi dall'Algeria, sono raddoppiati da un anno all'altro, oggi siamo già 1400, ma il dato curioso è che i tunisini sanno che se arrivano in Italia è molto difficile, pur essendo identificati, quindi anche nella condizione dal loro punto di vista più sfortunata, essere intercettati, sanno che non saranno rimpatriati, nonostante noi abbiamo un accordo di riammissione con la Tunisia. E questo perché? Perché quelli che si chiamano prima CIE, Centri di Identificazione e Espulsione, cioè quelle strutture dove vengono trattenuti gli immigrati illegali per poi essere riportati in patria, in questo momento sono quasi tutti in fase di ristrutturazione con pochi posti. Quindi questi migranti irregolari non possono essere fermati per poter essere restituiti e gli viene rilasciato soltanto un foglio di via col quale loro si dileguano. In Tunisia sanno di questa carenza che il ministro Minniti sta cercando di colmare, naturalmente queste strutture non si inventano da un giorno all'altro, e ne stanno approfittando con un flusso continuo. Al 4 ottobre, il dato di oggi al Ministero dell'interno degli sbarchi, sono arrivati altri 768 sbarchi solo in un giorno. Non è ancora nota la nazionalità, ma è molto probabile che riguardino appunto queste nazionalità di cui stiamo parlando. Il quadro mi sembra chiaro e anche, diciamo, poco positivo. Intanto grazie Francesco Marone dell'ISPI e grazie Marco Ludovico del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Adesso ci fermiamo, ci prendiamo una pausa e poi ricominciamo con gli altri argomenti. 349-238-6666, WhatsApp, SMS a questo numero, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. I vostri commenti sono molti. Per esempio dice Lucio: se arrivano senza controllo, come li hanno contati? Beh, adesso si parla proprio di questo fenomeno, soprattutto degli ultimi tempi. E poi sullo Ius Soli qualcuno che dice, altri che dicono appunto un'arma di estrazione di massa. Vediamo, ce ne sono moltissimi, qualcuno lo perderò di sicuro. Riguardo lo Ius Soli, dice questo ascoltatore o ascoltatrice: in Italia esiste l'arte di sollevare polveroni per nascondere al pubblico il nuovo accordo sulla legge elettorale incostituzionale. Lo sottoporremo alla prossima ospite tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, e anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora ad affrontare i temi con gli ospiti. Abbiamo parlato dell'allarme del Viminale su questi continui sbarchi negli ultimi tempi dalla Tunisia e dall'Algeria, e poi abbiamo raggiunto Michela Murgia, la scrittrice Michela Murgia, che era imprevedibilmente a Barcellona a sostenere la Catalogna, che ci ha parlato invece della sua passione per il premio Nobel per la letteratura 2017, questo scrittore giapponese, sicuro naturalizzato britannico. Ora invece ci concentriamo sulla politica italica e ne parleremo tra pochissimo di questo tema, che di nuovo è salito alla ribalta. Intanto però, se qualcuno avesse accidentalmente acceso adesso invece che puntualmente le 21, questi sono i fatti principali. Il caso di Cesare Battisti, l'ex terrorista, sfida l'Italia: sono protetto dall'asilo politico, ma il ministro Orlando dichiara la sua estradizione è possibile. Ne abbiamo parlato anche con il corrispondente dal Brasile di alcune manovre molto strategiche che Battisti sta facendo per non essere estradato. Ancora una volta Catalogna: la Corte spagnola vieta la seduta del Parlamento catalano per fermare l'indipendenza. Rajoy a Piedmont dice eviti dei mali peggiori. Poi ci collegheremo anche con Barcellona, allarme del Viminale, ne abbiamo parlato, su questi sbarchi. E poi lo Ius Soli, tema che affronteremo tra pochissimo. Formazione: l'Ocse striglia l'Italia, pochi laureati e poco valorizzati. Poi per il cinema, da stasera in sala l'atteso Blade Runner 2049. Lo Ius Soli, quindi dicevamo, solo sino agli ultimi giorni, ultime ore, sembrava un argomento quasi ormai archiviato per questa legislatura, soprattutto con le dichiarazioni di Alfano, ministro degli esteri Alfano, che aveva detto pochi giorni fa, proprio così fuori dai denti, aveva detto: è una legge giusta in un momento non opportuno, per una questione di consenso, visto che siamo ormai in campagna elettorale, ci si avvicina alle elezioni politiche. E anche la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, pur con una posizione diversa, aveva detto: mi piacerebbe, è una legge giusta, però mi sa che in questa legislatura non se ne fa nulla. Ora invece diventa un tema di grande mobilitazione sociale, perché è prevista per il 13 ottobre una grande manifestazione per le strade, per le piazze, con insegnanti, studenti, genitori, che scenderanno appunto in piazza per chiedere l'approvazione della legge. Ma sta in qualche modo spaccando anche la stessa maggioranza di governo e forse lo stesso PD, con 70 parlamentari che hanno aderito allo sciopero della fame. Ci sono poi artisti, vari personaggi dello spettacolo, e diciamo tra i politici il nome che spicca è quello del ministro delle Infrastrutture Delrio, che vogliamo sentire che cosa ha detto nella puntata registrata per questa sera Porta a Porta. Io aderisco da cittadino in questo caso, da cittadino che è convinto che quest'opera di sensibilizzazione sia utile, però credo che ci sia anche bisogno che si mobiliti la società civile. Allora, Barbara Fiammeri, prima, ciao Barbara, del Sole 24 Ore, prima ti leggo alcuni dei tanti messaggi che stanno arrivando tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. Per esempio, dice questo ascoltatore che è facile fare lo sciopero, dice Christian, è facile fare lo sciopero della fame quando la fame, quella vera, non l'hai mai patita. Qualcun altro dice che è un'arma di distrazione di massa. Questo messaggio, scrive, serve a nascondere al pubblico il nuovo accordo sulla legge elettorale incostituzionale. Altri dicono se possono rinunciare a mangiare allora possono rinunciare ai vitalizi. Poi c'è Diop da Torino, immigrato, che dice: Roberta, continua sempre a chiedere a tutti quelli che sono contrari alla cittadinanza per i figli degli stranieri, e come si fa da quando qualcuno vive qui da 25 anni, ha un figlio qui in Italia dopo che ha avuto la carta di soggiorno, ma vuole anche per il figlio, dice, vorrebbe che diventasse un cittadino italiano e non può. Poi altri messaggi, per esempio quello di Laura, che dice: i docenti di ogni ordine di scuola si sono mobilitati a favore dello Ius Soli con raccolta di firme eccetera eccetera, anche quelle dell'università, insomma, dice, il nostro paese, la classe intellettuale ha il dovere di imprimere una spinta per il progresso del paese. Giovanna scrive: mi riesce difficile capire l'urgenza di varare questa legge, secondo il mio modesto avviso abbiamo problemi più impellenti, ad esempio il lavoro dei giovani. Maria scrive: se non vogliamo che questi bambini, ragazzi nati qui, diventino come i francesi o i belgi che si sentono emarginati e si arruolano nell'ISIS, qualcosa dobbiamo fare, non possiamo trattarli tutta la vita come persone di serie B. E poi Andrea invece dice: la cittadinanza italiana non è un diritto, punto. Che cosa commenti tu a questo proposito, Barbara? Beh, intanto che bello sentire gli ascoltatori. Certo, come è sempre. Il primo, no? Commento che mi viene in mente, perché comunque sono voci diverse, sì, e tutte hanno una loro dignità. Come dire, una giustezza in quello che affermano, anche se alcune delle opinioni non le condivido, perché nascono da delle ragioni. E quindi secondo me il compito della politica è ascoltare le ragioni. Allora, per quanto riguarda questa vicenda dello Ius Soli, teniamo da parte le affermazioni, ecco, queste mi piacciono meno, quella se non mangiano e perché allora i vitalizi. Diciamo che per esempio per quanto riguarda Del Rio ha una storia, è un cattolico, uno che ha una storia dietro, non è che uno che se ne esce così per prendersi la pagina sui giornali. Peraltro è già magrissimo, vorrei aggiungere, ma comunque. Sì, ma comunque è una persona che ha una storia importante. Ha una sua coerenza, anche una sua di attivismo cattolico, insomma, ha una famiglia molto numerosa. E quindi non diamo giudizi, ecco, da questo punto di vista superficiali, questo è un consiglio che do a tutti. Per quanto riguarda invece proprio la vicenda dello Ius Soli, secondo me la cosa da mettere in evidenza è che questo tema è stato ostaggio da una parte e dall'altra di una perenne campagna elettorale, ed arriva in un momento, è come dire, è arrivato al la tempistica certamente non lo ha aiutato, perché è arrivato nel momento del massimo degli sbarchi, degli attentati. Il problema qual è? È che la politica non ha, nel caso di chi vuole portare avanti lo Ius Soli, mi viene da dire, il coraggio, e dall'altra parte chi invece è contrario anche, insomma, una correttezza nel riconoscere che non si può parlare di questa legge, di questa proposta di legge, come se questa proposta di legge favorisce gli sbarchi o il terrorismo. Qui stiamo parlando, ed è questo che vorrei sottolineare anche rispetto a una mediazione che sembra sia in corso con i centristi, che come tu ricordavi, Alfano era contrario, dicendo è una legge giusta ma non sono i tempi giusti, in sostanza, su puntare su una soprattutto sullo Ius Culture. Allora, secondo me, lo spieghi agli ascoltatori e alle ascoltatrici? Sì, cioè, la differenza qual è? Lo Ius Soli che c'è negli Stati Uniti, tanto per essere chiari, se si nasce sul suolo americano si diventa cittadini americani automaticamente. Benito. Da noi, se no. Si nasce in Italia non si diventa cittadini italiani, invece si diventa cittadini italiani se si è figli o nipoti o pronipoti, come vediamo i calciatori, gli troviamo sempre qualcuno, qualche parente lontano italiano per potergli dare la cittadinanza italiana. Invece che la mediazione sarebbe sullo Ius Culture, cioè per quei bambini che hanno frequentato corsi meno 5 anni, no? 5 anni di scuola. Sì. Allora io qui dico agli ascoltatori, soprattutto agli ascoltatori che sono contrari, di ragionare su quello che vivono tutti i giorni, che non è, che non deve essere la cosa dell'immigrato che sta sdraiato alla stazione, oppure che non paga il biglietto e noi vediamo i video del macchinista malmenato, ma è il bambino che vive con suo figlio e che parla calabrese, milanese, veneto, tutti i giorni a scuola. Barbara, siccome abbiamo ancora un minuto, dobbiamo dargli una risposta. Sei stata chiarissima. E la politica deve, io insisto su questo, la politica serve a dare risposte. Se da solo slogan, in un senso o nell'altro, tutti gli immigrati sono buoni oppure sono cattivi, non risolviamo i problemi. I problemi vanno affrontati e risolti, come dei buoni padri di famiglia. A proposito di nero e bianco, anche buone madri di famiglia, ma a proposito di nero e bianco, è possibile, Barbara, che poi chiudiamo, si possa fare forse qualche modifica a questa proposta di legge? Per esempio, qualcuno paventa il fatto che non tutti gli immigrati sono uguali, nel senso come cultura vicina alla nostra, e si fa la l'esempio ormai più chiaramente, no, di cittadini di cultura musulmana che forse non aderiscono tanto ai valori. Ecco, tanto per far capire anche agli ascoltatori la mia posizione, perché ho espresso una posizione, non ho fatto solo la cronaca. Certo. Per esempio, dal mio punto di vista, su questo bisogna essere severissimi. Ah, ecco. Cioè, non è che bisogna essere... A me interessa integrare, ma integrare alle mie condizioni. Noi Chiaro. Abbiamo dei valori, abbiamo dei diritti per e cui noi abbiamo aderire. Lo Stato, soprattutto noi donne, Appunto. E quei diritti vanno rispettati. Non mi interessa se sono musulmani, se sono di buddisti, di qualunque religione. Prima di tutto c'è la legge, perché siamo in uno Stato laico e le leggi si rispettano, a prescindere da dove... E questo va scritto chiaro, italiani. Nero su bianco, in questa proposta di legge, semmai diventerà legge. C'è una parte che riguarda anche questo, forse andrebbe rafforzata, ecco. Certamente lì andrebbe, si dovrebbe lavorare per rafforzare tutto chiaro. Ciò che è il rispetto della legge italiana, su questo non ci sono dubbi. Giusto, nessuna deroga. Grazie Barbara Fiammeri, a presto cara Barbara. Grazie a tutti. Ciao, buona serata. C'è la viabilità? Sì. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ve le ricordo in pochi secondi, abbiamo appena parlato del riaperto dibattito nella politica e anche nella società civile sullo Ius Soli e poi il caso di Cesare Battisti, l'ex terrorista sfida l'Italia, dice dal Brasile sono protetto dall'asilo politico, ma il ministro Orlando dichiara la sua estradizione è possibile. Catalogna, ne parleremo tra pochissimo, l'allarme del Viminale sulla rotta tunisina e i flussi fuori controllo e poi la formazione, l'Ocse striglia l'Italia dicendo ci sono pochi laureati e poco valorizzati, il Nobel per la letteratura, abbiamo parlato con la scrittrice Michela Murgia, va a Kazuo Ishiguro, autore giapponese e naturalizzato britannico, col famoso romanzo di Quel che resta del giorno e poi il cinema da stasera in sala, l'atteso Blade Runner 2049. Mi collego con Barcellona con il nostro Mario Magarò. Ciao Mario. Ciao Roberta. Sempre in primissimo piano, ovviamente la Catalogna, c'è stato oggi l'appello del primo ministro spagnolo Rajoy al presidente catalano, gli ha detto ripensateci per evitare dei mali maggiori, la Corte Costituzionale spagnola tra l'altro ha sospeso la sessione del Parlamento catalano, che abbiamo spiegato più volte in questi giorni, la Catalogna ha un suo Parlamento, un suo governo, gli indipendentisti catalani ne hanno richiesta un'altra nei prossimi giorni. Mario, aggiornaci man mano quindi sui passi che vengono fatti. Io innanzitutto mi scuso se sentite rumori di strada, in sottofondo, perché io ho appena incontrato un esponente dell'Assemblea Nazionale Catalana, che è la principale associazione indipendentista della Catalogna, mi ha confermato che lunedì l'Assemblea appunto ha invitato la cittadinanza a scendere nuovamente in piazza, ha convocato una mobilitazione generale dopo la decisione del Tribunale Costituzionale di sospendere la sessione straordinaria del Parlamento catalano. Quindi per lunedì si prevede nuovamente una folla oceanica per le strade di Barcellona. E la mattinata di oggi era iniziata con toni abbastanza tranquilli dopo il discorso di Carles Puigdemont di ieri sera di cui avevamo parlato, era stata caratterizzata soltanto, tra virgolette, dall'invito di Mariano Rajoy rivolto a Puigdemont a non continuare sui suoi passi per non aggravare la situazione, per non incorrere in mali maggiori. Dal pomeriggio è stato poi un susseguirsi di novità. La più importante, come hai detto tu Roberta e come a cui accennavo poco fa, è appunto la decisione del Tribunale Costituzionale spagnolo di sospendere in via cautelare la sessione straordinaria del Parlamento catalano. Questo sulla base di ricorso presentato dal Partito Socialista Catalano, quindi non dai popolari di Mariano Rajoy, dalla branca socialista in Catalogna, il PSC, che ha presentato appunto un ricorso al Tribunale Costituzionale palesando un possibile attentato alla Costituzione, in sostanza. Perché Mario, spieghiamo, quindi non sono tutti per l'indipendenza lì in Catalogna? Assolutamente no. Mm. I dati... Quali potrebbero essere le proporzioni, infatti, tra chi è a favore e chi no? Allora io credo che i fatti di domenica, quindi concretamente le violenze della polizia, abbiano fatto aumentare di molto la percentuale degli indipendentisti. Inevitabilmente, cioè non è stata una mossa intelligente, l'abbiamo detto, quella di raccolta. Assolutamente, d'altronde io stesso posso testimoniare, io domenica ero a coprire la votazione di Carles Puigdemont in provincia di Girona e dopo un intervento molto violento, quasi repressivo in sostanza della Guardia Civile, spesso molte persone mi hanno confermato che erano lì per votare no e dopo quelle scene si erano convertiti in indipendentisti. E addirittura due signore che ho intervistato erano originarie, una dell'Andalusia e una dell'Estremadura, perché bisogna ricordare che la Catalogna è un po' una sorta di Lombardia spagnola, ovvero essendo la regione più ricca, moltissimi catalani hanno in realtà un'origine appunto andalusa, estremegna, della Galizia, quindi dalle regioni più depresse economicamente della Spagna. Qui insomma intorno negli anni 70 quasi 1 milione di andalusi raggiunse la Catalogna. È molto molto comune trovare qui persone nate in Catalogna però attratte dalla ricchezza della regione, no? Sì o con nonni di origine andaluse. Tornando alle percentuali, prima del voto circa l'80% dei catalani voleva votare, era quindi favorevole al referendum, però all'interno di questo 80% c'era una grande percentuale anche di persone che erano favorevoli al no. La percentuale di indipendentisti in senso stretto era intorno al 45%. Di questo 45% un 20-25% erano i veri e propri radicali, quei catalani che in sostanza si sentono tali per una questione di sangue e sono soprattutto confinati, radicati nelle zone interne della Catalogna, in particolare in provincia della città di Vic o una città Berga, di nome Berga. E dopo i fatti di domenica... E chiaramente saranno aumentati quelli che sono favorevoli all'indipendenza. Abbiamo parlato di questo errore madornale di Rajoy. Mario Magarò, ci dobbiamo lasciare. Grazie molto intanto, sei stato molto molto preciso. Grazie da Barcellona, poi ci sentiremo nei prossimi giorni. Ciao Mario, noi ci risentiamo invece alle 22.